Ajuras. And the Lifestyle 96. The Lost Mix. Ajuras, son mini kini fuya, sabiri fura, sadi tranquila, samu ki traguya, conta brulas. Ananti de no stream. Fava calla, di mezza vento viruta, sua raccoglia navarra. Aciuras, di zucchinari verdi rotte desta sola. Aciuras, chi ne sti uomini un su più su no calenta foto. Soru, chi viri no è sempre chi sciri. Su malu, chi vivi in su mundo pago su due strinti più de vinti. Mille as personas morin ti assadì. Fammi di siri e chi ni pori aciura e non scisi visi deu. Sa cosa basce si ti aice basta. Ad ognuno è sarà su lo più usato non si importa. Chi do tu gusto è giusto non comprendo. Da senso reni di su mundo chi arrios invento. Andi a cabasso gnoni, chi ne astura o su soli. Sa soluzioni a barra in conca desta gente fari in a regione. Prega deu su chi non tu veu su morro si mesa. Sotto gusto malu fate non e non e nanta te. Su seu su meris de nostra vita in terra e gusta guerra. Si pari mondo e teni morte chi ne bruci in serra. Pensa che non darò in tasuto desta sferra. Vendetta grida, vendetta segara. Ma in mera sa scintica di essa graivo se risporta. Sanno punti bomba, sa ma sa sin taste manu. Fratto se persona sfora. Sorgoglio catritori in prosa. Amo de vogo entro brucia cuni so buscora. Smera porta, s'amigo e su primo carido. Fai ricomprendi in sesti verus che sti melu solo pensi chius. Pensa deus, tu a cali punto seus. Il suo mondo sti arruenda su te no su manco. Vuoi sin da cattao su deus. Sa giura chi vode zacchini. No sci di gusto che fa rende vuelta gusto. Imo c'è crisi. La gelosia, l'invidia, la sofferenza, il tradimento, l'orgoglio, l'odio, le lacrime, il male. Un ricordo che mi porti testa convinzioni. Chi rotto su le mie sinconca. E non ci sesi, ma scisi. Tu vivi sin su coro, grazie vini. Sesi parti testa verso una mia ticchini di biri. Arriende ancora palasa di una fotografia. Le sesi ancora non uscì, ho tressa menti mia. Del sud è sparto a sputa chi ni iori sembra canto. A giura schini teni viso un ciucchini si sta incubando. Da sa travarti che ne scite cessi. Sicuro che sti meglio su de gusto mutaresti. Po' sempre, tu e tu sa compagno da sonendi. Sa conca te chi non comprendi, ma si pari intendi. Voci trista, voci contenta. Soriga scurta, ma varie volte stiamo ancora intenta. Gente cresia, narra destesia, sconvoce eresia. Sa chi ni disi, condisi, non va a pari in sa mesa che si scena. Ma gusto scelto una parte schiaresha. Desta realtà chi devi sa giurai de sarte l'asta. Eh sì, ci sono troppi problemi nel mondo. Siamo nel 2002 e ancora molte cose non si sono risolte. Dove cazzo andremo a finire in questo modo? Scusa giura.